Immaginate che ci sia un esercizio che in soli 3 minuti vi aggiusta la giornata. Ok, potete anche smettere di immaginare perché questo esercizio esiste davvero. Ve lo svelerò tra poco, però prima dovete farmi una promessa, che non appena avrete finito di vedere questo video prenderete carta e penna e lo farete immediatamente. Qualche settimana fa l'abbiamo fatto insieme agli amici di Polignano a Mare in una giornata che abbiamo passato insieme e devo dire che ha avuto come sempre i suoi bei frutti. A proposito, un carissimo saluto a te, Don Gaetano, e alla tua carissima e simpaticissima comunità. Ok, possiamo iniziare. Si tratta di un gioco veramente semplice, semplicissimo. Ti servono soltanto due cose: un foglio di carta e una penna. Prendi questo foglio e questa penna e inizia a scrivere di getto, in modo immediato, quante più cose ti fanno sentire grato. Attento, è importante che tu scriva di getto, senza pensarci troppo, in modo immediato, lascia fluire da dentro di te tutto quell'insieme di cose per le quali tu sei felice, tu puoi dire di essere grato, dalle più semplici, dalle più scontate, a quelle più alte, a quelle più spirituali, più metafisiche. Scrivi tutto di getto. Ti do qualche aiuto. A partire proprio dalle cose più semplici, le mani, le dita, il fatto che posso scrivere, il tatto, gli occhi, la vista, posso vedere, posso parlare, le gambe, le braccia, posso camminare, posso stringere la mano, posso parlare, ascoltare, mangiare, assaporare, sgranocchiare, il latte, i biscotti, le lasagne, i panzerotti, la pizza. Il pesto, la torta di compleanno, il compleanno, sono vivo, la vita, la famiglia, gli amici, i figli, mia moglie, mio marito, l'amore, l'amore che ho ricevuto, l'amore che ho dato, ma anche lo scotch, il cacciavite, la casa, l'automobile, le scarpe che proteggono i miei piedi quando cammino per andare a incontrare qualcuno, le persone che incontro, anche gli sconosciuti. E ho incontrato Dio, la fede, la speranza, l'esistenza, il respiro, la preghiera, il canto, le canzoni, il Vangelo che ho ascoltato ieri, i libri che ho letto e anche i libri che non ho ancora letto. Ok, io il gioco l'ho appena fatto insieme a voi e mi sento già molto ossigenato, come se avessi vissuto per qualche giorno in una cantina buia, ristretta, senza ossigeno. E poi a un certo punto esci fuori e ti ritrovi in cima a una montagna, con un panorama meraviglioso e con l'aria tersa, il panorama, le gite, le montagne, i laghi, i fiumi, il sole. Sì, mi sento già ossigenato perché credo che la gratitudine sia ossigeno per noi, ossigeno per il nostro corpo, per la nostra mente, per il nostro spirito. E se il nostro spirito sta meglio, anche il nostro corpo sta meglio. Tra l'altro, la gratitudine è ossigeno anche per la nostra capacità di comunicare. Pensaci un attimo, come comunicano le persone che si lamentano sempre e di che colore è invece la comunicazione di una persona grata, felice, solare? Ah, e un'altra cosa, se facendo questo gioco in modo spontaneo, di getto, ti verrà naturale scrivere anche probabilmente dei nomi di persone, dopo averlo fatto sentirai dentro di te una gran voglia poi di abbracciarle queste persone. Allora, se la prossima volta che le vedrai effettivamente ti verrà di dargli un forte abbraccio, poi spiegagli perché l'hai fatto. Ok, basta, ti ho già dato fin troppo suggerimenti. Adesso mi avevi fatto una promessa. Prendi subito carta e penna e inizia a fare questo gioco tu stesso, in questo momento, adesso, e poi magari rifallo domani o tra una settimana o tra un mese, o magari fallo quel giorno in cui ti sentirai un po' buio dentro, sentirai un po' di tristezza. A volte non so se ti capita di sentirla, anche se non capisci bene il perché, non riesci a dargli un nome. Fallo anche in quel momento. Ma ora non pensare a quel giorno, pensa soltanto ad adesso, pensa al presente. Fai questo gioco adesso, nel presente, perché presente e gratitudine, non so se ci hai mai pensato, sono legati tra di loro, sono fratelli e sorella, anzi, probabilmente sono figli l'uno dell'altro, perché laddove vivi nel presente, riesci ad essere grato per le cose che hai, e se riesci ad essere grato è perché stai vivendo nel presente. E poi ti chiedo un ultimo favore: dopo che l'hai fatto, ritorna qui e scrivi nei commenti come ti sei sentito, se hai provato delle sensazioni, se qualcosa è cambiato dentro di te. E poi, se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace come sempre e invia soprattutto questo video a una persona che credi che potrebbe fargli piacere, potrebbe averne qualche giovamento, perché credi che abbia bisogno di un'iniezione di positività e di gratitudine. A più tardi allora, non vedo l'ora di leggere anche il tuo commento.